di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Oggi è una puntata molto collettiva. La vita corre e se ne va. O sonho não sono realidade. O prato verde intorno a me. E gioco per sentirmi un re. La casa mia non so qual è. Eppure è bello stare qui. Con la mia donna accanto a me. Sarà così, sarà così. Sarà così. Con questo ritmo brasiliano cominciamo immediatamente la puntata di questo 6 febbraio del nostro Zibaldone. Banzo, già ti ho sentito scatenato ballare sulle note della voce un po' stonata, ma insomma così ci fa tenerezza, di Joie, sarà così. Era il 1981, caspita, sono passati un po' di anni. Zibaldone e soprattutto Banzo, ergonomico più che mai, bentornato e buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Direi che un po' stonata è un pietoso eufemismo, ma vogliamo tutti molto bene a Juari, uno di quegli stranieri mitici della prima ondata dopo la riapertura delle frontiere, che è un, chiaramente mi riferisco al momento storico in cui i giocatori stranieri sono potuti tornare in Italia, però in questi tempi in cui si parla di quella robaccia che è la remigrazione, anche solo questa espressione piuttosto innocente suona male, ma questo per ricordarci che il passato purtroppo riesce quasi sempre a essere meglio del presente. Ma perché abbiamo ascoltato questa canzone di Juari? Ecco, dillo un po' te. Ma vuoi perché dirlo o no? No, ma guarda, dillo tu, e poi si capirà perché sono un po' ritroso, ecco. Sì, perché oggi è una puntata particolare. Parliamo di calcio, ma in realtà parliamo anche di tante altre cose. Il titolo, lo dico subito, è Abbecedario Pallonaro, che è in realtà il titolo anche di un libro uscito da poco per Garrincha Edizioni. Il sottotitolo è Da Altonen a Zubizarreta, che forse insomma qualche fan del calcio dei tempi che furono insomma capisce che qui insomma ci sono personaggi del calcio del passato, degli anni 70, 80, 90 e non solo. L'autore è un collettivo, per questo vi dicevo prima, è una puntata collettiva, collettivo Atletichio, diversi autori che hanno scritto dei racconti spesso anche inventati, in buona parte inventati, a partire da calciatori non solo che hanno giocato in Italia ma in tutto il mondo nel passato. E di questo collettivo Atletichio, tra l'altro, Banzo, facciamo parte anche io e te, e quest'oggi per parlarcene ci saranno due figure chiave: l'allenatore Marco Valesi e l'inventore del gioco che insomma poi quasi tre decenni dopo ha dato vita a questo libro collettivo, Marco Galeotti. Con loro tra poco parleremo di questo progetto e capirete che è una cosa interessante, simpatica, e che appunto unisce una certa, se vogliamo così, nostalgia del passato, del calcio del passato, con la letteratura e ovviamente con lo sport, in questo caso il football, come si dice in altre latitudini. Banzo, Juari, detta meglio in brasiliano, perché tu hai scritto un capitolo su Juari, poi magari ne parliamo. Beh, dopo. Sì, probabilmente è meglio parlarne con i nostri ospiti. Sì, ho preso la palla al balzo, ho scritto questo racconto su Juari. Fausto, che salutiamo, ha selezionato questa canzone che è veramente improbabile, e quando ho scritto il racconto non sapevo che esistesse, onestamente. non so perché c'è sempre questa tendenza a far cantare categorie che non dovrebbero farlo e che diciamo non sono non sono tenute a farlo, ecco. E il tema è quello della saudade, immortale della musica brasiliana, e comunque se il cantante è un po' improvvisato, poi l'arrangiamento invece è abbastanza curato. Abbiamo l'Academia Sound, il coro degli Academia Sound, specializzato in colonne sonore anche con Morricone, sigle televisive, e poi il compositore Giacomo Simonelli e il paroliere Emilio Iarrusso, che è anche un giornalista e politico nelle file di PSIUP prima e PC poi. Quindi è una storia interessante, perché sono stati anche autori per il Balletto di Bronzo, gruppo mitico del prog, o per Minoritano. Quindi si vede che dietro questa canzone cantata da una persona che non sa cantare c'è comunque una certa sapienza e un certo background musicale. E diciamo che parte delle canzoni di oggi affronterà, sarà dedicata a calciatori che appaiono anche nel libro del collettivo Atletichillo, sì. Come la prossima, benché si tratti di uno strumentale. Eh sì, tra l'altro è anche questo, in questo caso un brasiliano che approdò negli anni Ottanta alla Pistoiese, Luiz Silvio Danuello, no? che è protagonista in fin dei conti di questa canzone Oliver, tra parentesi sottotitolo The Spirit of Luiz Silvio Danuello, dei Marlon and the Confidence, che sono un power trio pistoiese, che ha dedicato un brano quasi interamente, come dicevi tu, banzo strumentale, ad una leggenda locale, che si apre tra l'altro con un frammento della telecronaca di Fiorentina Pistoiese dell'81, vinta in trasferta 2-1 dalla Pistoiese, con il gol di un giocatore della squadra di Pistoia, degli arancioni, Giorgio Rognoni, perché Luiz Silvio non ne ha segnato nemmeno uno di gol nella Pistoiese, fu portato come una specie insomma attaccante micidiale, però sì, perché però in realtà si dice sempre che ci fosse questo errore di traduzione. Io questa storia l'ho sentita infinite volte, mi sono sempre chiesto se fosse vera. Questi emissari italiani che arrivano in Brasile gli chiedono, c'è una partita d'esibizione che qualcuno suggerisce fosse stata arrangiata per far ben figurare Luiz Silvio, interrogato sul suo ruolo lui risponde ponta, che in brasiliano significherebbe ala, e gli italiani capiscono punta e lo fanno giocare in un ruolo non suo, con risultati deludenti. Io questa cosa non so assolutamente se sia vera, ma comunque è molto adatta al personaggio, perché Luiz Silvio non è entrato nella leggenda per il gol che non ha segnato, come giustamente dicevi anche tu, ma per la quantità incredibile di aneddoti che sono sorti intorno a lui, quasi tutti falsi, immagino, mi sembra anche di ricordare attore porno, non lo so. Però questo significa che appunto aveva lasciato una traccia fortissima nell'immaginario, e il mito era fermentato da solo, anche suo malgrado, se vogliamo. Sì, tanto che il personaggio di Aristotele nel film cult L'allenatore nel pallone dell'84, si dice che sia stato anche ispirato a lui. Comunque, insomma, bando alle ciance, parliamone di tutto questo con Galeotti e Valesi, e per questo andiamo a ascoltarci questa canzone su questo Danuello. Bye. eccoci qui per parlare questo pomeriggio di abbecedario pallonaro da Altone, attenzione, con due A, a Zubizarreta, con una Z solo, del collettivo Atletichio, che è uscito per i tipi di Garrincha edizione da poco. E devo dire, Banzo, che questa intervista, questa chiacchierata, non ci vede solo come intervistatori, ma in realtà anche un po', insomma, a modo nostro come protagonisti, ossia, poi il nostro pubblico la capirà, come giocatori, perché anche io e te abbiamo partecipato in questo libro collettivo, che è un progetto molto interessante. Il Banzo è il numero 2, un terzino alla Bergomi, io sono un numero 6, insomma, libero, vecchio stile, alla Baresi, ma preferisco dire come Pluto Aldair, visto che sono romanista, e ci sono altri giocatori, anche un allenatore, e un altro di questi giocatori oggi è qui con noi, Marco Galeotti, che è anche l'inventore di questo gioco che ha dato l'idea a questo libro. Marco, bentornato a Zibaldone, perché eri stato nostro ospite anni fa. Ciao a tutti, è veramente un piacere essere con voi. E anche do il bentornato, il auguro buon pomeriggio all'allenatore di questo collettivo Atletichio, ossia Marco Valesi, anche lui è già stato nostro ospite in passato. Marco, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Allora, cominciamo un po' dall'idea, ecco, perché questo libro collettivo che raccoglie diversi racconti, no, seguendo l'ordine alfabetico dall'A alla Z di giocatori di calcio, soprattutto del passato, e ricostruendo in questi racconti in modo abbastanza fantasioso, per così dire, ma poi lo spiegherete anche voi, le vite, le storie, degli aneddoti, dei momenti, delle traiettorie umane e non solo sportive di questi giocatori, beh, insomma, l'inventore sei tu, Marco Galeotti. Quindi ti cedo subito la parola, racconta un po' anche ai nostri ascoltatori come è nato questo gioco e poi, insomma, come si è trasformato anche in un libro, e qui poi vorrei anche sentire Marco Valesi, l'allenatore. Sì, Steve, molto volentieri, proprio perché effettivamente tutto è nato da un gioco che, se vogliamo andare indietro nel tempo, ci porta all'autunno del 1996, studenti universitari, Parma, un po' di nebbia, all'epoca le osterie erano di conforto alle nostre serate dopo le poche ore passate, poche ma intense, all'università, e un po' di vino rosso, poi qualcosa da dire sempre, politica, calcio, altre robe sicuramente, ma forse i primi due argomenti erano davvero quelli. E allora, parlando di calcio, una sera abbiamo cominciato a provare a indovinare i nomi dei calciatori che ci facevano andare giù di testa, che ci rimanevano dentro, dalla A di dissi Altone, perché all'epoca, tuttora peraltro, la doppia A non era così facile da trovare nel mondo del calcio, ed era il calciatore in attività con il primo cognome disponibile, fino a, pensandoci un attimo, mi venne la Z del portiere Zubizarreta. Il gioco è molto semplice, ma ha delle regole ferree, se vogliamo, nel senso che bisogna che il mazziere, quello che pensa, ad esempio, se io penso, visto che eravamo a Parma, dico Osio, comincia a far partecipare gli altri, e mano a mano il campo si restringe. Quindi se uno dei partecipanti dice ben arrivo, il mazziere dirà da ben arrivo a Zubizarreta, se uno dice Melli, da Melli a Zubizarreta. Se uno sbaglia l'intervallo, deve bere di golata il bicchiere di vino che ha davanti, e così via, fino a quando uno indovina. Quello che indovina può decidere il gioco dopo. Tieni presente, Steven, che l'inventiva portò a robe tipo calciatori calvi che giocarono nel Bologna, piuttosto che sudamericani con almeno una presenza ai mondiali, eccetera eccetera, quindi veramente la qualunque. Questa è la genesi, ovviamente, dal gioco che non è mai uscito da noi, perché ogni volta che ci vediamo ci giochiamo. L'ultima volta abbiamo giocato proprio con Marco Osio, per questo mi è venuto in mente, oltre che per il suo trascorso nel Parma, e quindi il gioco è sempre parte di noi, ma poi da lì, non essendo mai uscito dalle nostre vite in qualche modo, e chiamo, con, come dicevi giustamente tu, in causa il mister, l'abbiamo un po' ripreso e abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Ascolta, però, prima di dare voce al mister Marco Valesi, c'è anche un aneddoto molto bello, no? del racconto che ci hai fatto di questo gioco nato, no, nella seconda metà degli anni 90 in quel di Parma, tra insomma serate sempre ben condite di vino. E qui, tra l'altro, vi direi subito una cosa: il Banzo non potrebbe giocare perché è straight edge. Detto ciò, e Banzo, poi dopo ti cederò la parola se vuoi anche intervenire, non so se con una gomitata alla Bergomi al riguardo. E, insomma, questo gioco ha avuto in quegli anni d'oro anche un incontro importante, che è quello con Gianni Mura. Beh, sì, effettivamente questa è una delle diciamo chicche del percorso che ha portato al libro, nel senso che inspiegabilmente, da un certo punto di vista, questo gioco piacque a diverse persone che non avevano magari nulla a che vedere con noi direttamente, ma che semplicemente incontravamo lungo il percorso, e quindi sventò una rissa fuori dall'Onirica a Parma grazie a Buderbala, calciatore marocchino che indovinò, un marocchino che stava per fare delle cose abbastanza complesse con un paio di persone che erano con noi, e in modo molto più nobile conquistò l'animo, o comunque diciamo la creatività, di una persona molto più creativa di noi, che appunto risponde al nome di Gianni Mura. Una serata in un locale a Parma giocò e poi ci sono un po' di leggende al riguardo, ma non mi spingo oltre perché insomma è una parte del racconto. Marco Valesi, ti cedo la parola. Insomma, da un gioco si è trasformato molti anni dopo, perché il libro è uscito pochi mesi fa, nella seconda metà, alla fine del 2025, è nato questo libro, no? Abbecedario pallonaro dal Tone Nazzu Bizzarretta, firmato dal collettivo Atletichillo. Ecco, tu che sei il mister, l'allenatore, spiegaci un po' questo passaggio in formato libro. Sì, diciamo 29 anni, quasi 30 anni dopo, e il gioco si è trasformato, pur rimanendo un gioco, in un libro. Ho pensato che valesse la pena dare forma e sostanza a quest'idea, a questi voli pindarici, alcolici dei tempi universitari, quindi ho chiamato a raccolta un gruppo di amici, tra cui anche Steven Forti, Enrico Banzola e Marco Galeotti, ma ce ne sono altri, non li cito tutti, tanto li vedrete in giro, stiamo presentando un po' in Italia, il venerdì 13 febbraio alle 17 saremo alle Nuvole a presentare la Libreria Italiana di Barcellona. Quindi dicevo, ho chiamato a raccolta 11, mi sembrava che fosse il numero più adatto, giocatori, scrittori, amici appassionati di un calcio che sta scomparendo, che sapevo avevano penne fertili e grandi letture alle spalle, e ho chiesto loro di dare nuova vita a biografie di calciatori che ci avevano, come diceva prima Galeotti, scaldato il cuore e l'anima. E, a differenza di quello che si fa abitualmente con il mondo del calcio, in maniera, come dire, quasi da realismo magico, abbiamo pensato di alterare leggermente le biografie dei calciatori stessi. Di calcio si parla tanto, si scrive tanto, si legge forse un po' meno. A noi sembrava che potesse essere interessante partire dal calcio per raccontare delle vite di calciatori che hanno un percorso piuttosto originale. Quindi si passa da Altone, Nazzu Bizzarretta, già citati, a Baggio, a Luis Silvo Danuello, Edmundo, Juari, Kempes, Lodetti, Macina, Nakata, Ortega, Pagano, Scuravi, Tevez, Uribe, Valderrama, Taribo West, Yashin, insomma ce n'è una quantità importanti, in realtà sono 26, perché 26 sono le lettere d'alfabeto, includendo diciamo le lettere straniere. Siamo molto contenti del risultato finale, e concludo questo mio primo intervento dicendo che è un libro che parla di calcio, ma anche a chi di calcio, come dire, interessa relativamente poco, perché è molto più rotondo il racconto. Ci siamo ispirati, dicevamo, all'Arancia Meccanica olandese, al Corinthians di Socrates, al Napoli di Maradona, quindi è una scrittura di calcio molto, molto roboante, molto rotonda, molto sudamericana, quindi si intravedono i fantasmi di Brera, di Soriano, di Galeano, quindi è una lettura che consiglio in maniera interessata un po' a tutti. Ascolta, io Banzo, vorrei, ecco, un attimo interrompere, vai, vai. Scusa Steven, per dire due cose brevissime. La prima è che Marco Valesi è allenatore ma anche giocatore, perché ha scritto vari racconti fra i 26, Come Zola al Chelsea, Banzo? È un riferimento felicissimo, Steven. E la seconda cosa è che quando hai fatto l'elenco dei calciatori, cioè hai praticamente sfondato la scala Ezio Lussi, cioè proprio quella capacità di fare l'elenco, perché Ezio Lussi di solito si fermava a 11, o meglio l'imitazione di Ezio Lussi, tu li hai elencati praticamente tutti, io stavo quasi per cadere dalla sedia, comunque complimenti. Manzo, però a questo punto, insomma, prima ti ho tirato in ballo sul fatto che tu, insomma, difficilmente potresti giocare al gioco inventato da Galeotti, insomma, non so se vuoi dire qualcosa al riguardo, por alusiones, come si dice in Spagna, o invece vuoi glissare? Ma guarda, io sono stato coinvolto un po' in medias res, ma c'è anche un po' di conflitto di interessi, ma poi penso a Berlusconi, mi tranquillizzo. E, dicevo, sono stato coinvolto in medias res, quindi tutto lo sfondo alcolico del gioco l'ho scoperto dopo, e devo dire che in effetti rischio di fare quello che alla festa sta in disparte, non dice niente, guarda gli altri un po' in cagnesco. Non è esattamente la mia intenzione, però diciamo che le mie abitudini con l'alcol potrebbero portarmi a questo. Ma Galeotti potrebbe giocare il Banzo al gioco originale bevendo succo di pomodoro con tabasco e sale? Guarda, io in realtà mentre parlava ho, come dire, pensato a una soluzione forse principale. Basta che non sbagli mai. Perché se tu non bevi mai, non devi bere, quindi ti prepari benissimo, non sbagli mai l'intervallo di gioco, non è importante che tu indovini o meno il calciatore pensato da Steven, l'importante è che non sbagli l'intervallo e non bevi, quindi è una sfida nella sfida. Beh sì, cioè è un po' sul filo del rasoio, ma lo terrò presente nel caso mi ritrovi coinvolto, e dire che in gioventù ho affrontato dei pogo abbastanza terrificanti, però questa circostanza mi farebbe un po' paura, devo ammetterlo. Ascolta, beh, in ogni caso, secondo me non mancherà tanto che tu, Banzo, ti trovi in questa situazione, perché approfittiamo subito per dirlo anche ai nostri ascoltatori, tra proprio una settimana, venerdì prossimo alle 19, quindi tra 7 giorni esatti e un'ora, il libro si presenterà anche a Barcellona, dopo essere già stato presentato in giro per l'Italia, dove sarà presentato anche nei prossimi mesi in diverse città, alla Libreria Italiana Le Nuvole, insomma molto conosciuta credo dai nostri ascoltatori, Carrera San Luis 11, quartiere di Grassia, vicino al metro di Gianic, ma ci si arriva facile anche da Fontana, insomma saremo in parecchi valesi, se non sbaglio, perché insomma ci saremo sicuramente io, te e il Banzo, che siamo un po' la sezione barcellonese del collettivo Atletichio, però da quello che ho capito, ma spiegalo anche tu, ci saranno anche altri dei giocatori autori. Sì, ci saranno anche Stefano Adorni, che ha scritto un pezzo su Marco Macina, considerato un talento italiano migliore anche di Roberto Mancini, e poi sarà con noi Andrea Villa, che ha scritto due pezzi, uno su Nakata, il sollevante dell'avvenir, e un altro su Andoni Zubizarreta, il diavolo rosso del Barça. Quindi ci sarà una nutrita presenza di scrittori, ci sarà l'allenatore giocatore, non tutti possono venire perché è un collettivo, diciamo, distribuito sul territorio italiano. Presenteranno due dello Schiglios il 7 di febbraio ad Ortona, il 13 saremo a Barcellona, poi c'è una presentazione il 20 a Spezia, il 20 di febbraio, poi gireremo un po'. È un libro che sta avendo un certo successo sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista della critica, e siamo molto contenti. Mi sembra giusto citare Giovanni Salomone, che è stato un po' l'editore che ha creduto nel progetto, l'editore di Garrincha Edizioni, e Marotte Cafiero, che è un po' la casa madre, questa storica casa editrice napoletana, e indirettamente l'antica tipografia Biagini, che è stata un po' la realtà che ha dato là al tutto. Comunque vi aspettiamo venerdì 13 a Barcellona, e si gioca, si beve, probabilmente ci si diverte, e si ascoltano anche parole di, insomma, persone che scrivono piuttosto bene, devo dire. Sono contento dei miei ragazzi. Per citare anche gli altri autori, visto che ne mancano ancora pochi, no, di questa rosa di 11, oltre alle narratore lo faccio io, no? Da Alessandro Rocco Sure, uno degli altri autori, Patrizio Dall'Argine, Luca Farinotti, Domenico Gambarelli, Diego Sorba e Matteo Tella. Ma a questo punto io direi anche una cosa. Banzo, tu hai scritto un testo dedicato a un giocatore che insomma ha giocato negli anni 80 in una squadra che in quegli anni insomma era stata in Serie A, poi dopo insomma è un po' scomparsa tra la B, la C e le serie minori. Parliamo dell'Avellino e parliamo di Juary. Insomma, dai qualche chiave agli ascoltatori su come hai lavorato. Tu ti sei trovato, per così dire, scusa Banzo, scrivi un racconto su un giocatore. Bene, mi piglio la J e faccio Juary. Ecco, detto ciò, come hai fatto, cosa hai fatto, cosa hai scritto, insomma, almeno dai qualche tips, come si direbbe in inglese. Va bene, dunque, no, allora, la J è una delle poche lettere rimaste quando sono stato coinvolto nel progetto, e diciamo che non ho scelto la lettera prima di avere il giocatore, perché avevo in mente che si potesse scrivere un racconto su Juary, e qui devo citare un celeberrimo canale YouTube di calcio che è Cronache di Spogliatoio, che mi ha involontariamente ispirato, perché è noto, io sono solito cenare ascoltando video su YouTube, è un po' la televisione della gente anziana ma meno anziana di quelli che la guardano, quindi sì, ascolto in realtà molti contenuti calcistici, e negli ultimi anni il calcio raccontato è onnipresente. Questo video che mi ha involontariamente ispirato è un video sulla stagione 80-81 dell'Avellino, che per la squadra alpina fu particolarmente significativa, perché ovviamente fu l'anno del tragico terremoto dell'Irpinia, 23 novembre del 1980, però anche dal punto di vista sportivo era cominciata malissimo per la squadra, perché c'era una penalizzazione di 5 punti, 5 punti nell'epoca dei 2 punti a vittoria, quindi un ostacolo non da poco che praticamente non li condannava ma li rendeva dei candidati molto papabili alla retrocessione. Ed ecco, poi alla fine si salvarono. Alla fine, e chiudo, il dettaglio che mi ispirò è stato che in questo video di Cronache di Spogliatoio si menzionava il fatto che Juary si fosse detto disposto ad adottare uno degli orfani del terremoto. E siccome mi hanno detto, guarda, altera la biografia, ho detto, ecco, questo è il dettaglio sul quale voglio lavorare. E infatti, il resto sarebbe spoiler. E infatti il titolo del tuo racconto è Georges Dos Santos, figlio Juary, ossia il nome del giocatore come è per tutti i capitoli, figlio Juary e Ogaroto Irpino Brasileiro, questo è il sottotitolo. Invece ascolta, Marco Galeotti, tu hai scritto, se non sbaglio, due racconti, no? Ti sei dedicato a due lettere di questo abecedario pallonaro. La B, insomma, Roberto Baggio, Berto, questo è il titolo, e poi se non sbaglio la T di Carlos Tevez, La sorrisa del pueblo. Ecco, se vuoi anche tu, senza fare troppi spoiler, dare qualche tips ai nostri ascoltatori per capire anche come gli autori di questo libro hanno lavorato, io credo che sarebbe interessante. Sì, inizio col nominare anche il terzo racconto che ho fatto insieme all'allenatore, che è la G di Gutmann. Hai ragione. E in modo tale che poi anche Marco, se vuole aggiungere qualcosa, è libero di farlo. Io devo dire che sono contentissimo di aver rispolverato un racconto scritto nel passato su Roberto Baggio, gli altri due erano nuovi, perché Roberto Baggio per me ha sempre significato il calcio con la C maiuscola, ma soprattutto l'ho sempre visto come Berto, cioè non come Roberto Baggio classe 67, quello non tanto del rigore sbagliato a Pasadena ma di una carriera incredibile sotto tutti i punti di vista, ma come un ragazzo a cui piaceva sopra ogni cosa giocare a pallone, che aveva una storia diversa rispetto ai grandi campioni dell'epoca, e questa è stata, diciamo, la visione sulla quale ho ricamato una storia che ovviamente amplifica, storpia, come da copione datoci dal mister Valesi, quella che è la storia vera di Roberto Baggio, che rimane clamorosa ma conosciuta ai più, mentre la mia un po' meno. L'allenatore Valesi ne ha scritti parecchi di racconti in questo libro, no? Dal già citato Mika Altonen, il finnico genio, Aidmundo o Animal do Carnaval, per passare poi anche a John Charles, Giovanni Carlo, Carlon gigante buono, vi sto leggendo i sottotitoli, no, di questi capitoli, a Giovanni Carlo Lodetti, Ceramica, a Riccardo Quaresma, la Trivela Gitana, e anche Taribo West, Marciano di Dio, e senza poi dimenticarsi di Abel Xavier Virus. Ascolta, Marco Valesi, senza entrare poi nel dettaglio di ogni capitolo, che è una storia a sé, e invitiamo quindi anche gli ascoltatori a venire alla presentazione la prossima settimana alle Nuvole, a accattarsi questo libro, leggerlo, perché è molto divertente e sicuramente piacerà. C'è un in tutto questo libro, no, i nomi che abbiamo menzionato, da Baggio a Valderrama, a Juari, a West, a Tevez, a Ortega, a Nakata, al Greco Tsipanagis, no? C'è insomma un po' di nostalgia del calcio del passato che non esiste proprio più. E come allenatore questa domanda devo farla a te. Beh sì, inevitabilmente raccontiamo giocatori che non sono più in attività, chiaramente faremo credo fatica, anche se il calcio è sempre foriero. Pensate alla finale della Coppa d'Africa, quello che è successo, comunque è sempre uno sport che muove passione, folle oceaniche, però noi siamo un po' per età, un po' perché quel calcio lì si prestava forse di più a dei racconti alla sudamericana, diciamo, che è una letteratura calcistica che ci ha ispirato. Abbiamo pensato che fosse opportuno, anche perché il gioco risale a una trentina d'anni fa e quindi in qualche modo era quello il calcio al quale giocavamo, il calcio che abbiamo voluto raccontare. Volevo dire un paio di cose, non so se ci sarà tempo, però Steven Forte ha scritto un bellissimo racconto su Valderrama, il Gullit biondo, l'indimenticabile centrocampista colombiano, una storia meravigliosa tra Montpellier, i mondiali e la Colombia, che questo libro fa parte di una trilogia, perché ce ne sarà uno che dovrebbe uscire prima della fine del 2026, se i ragazzi risponderanno agli stimoli come hanno fatto per questo del 2025, che sarà, diciamo, titolo provvisorio da Ancelotti a Zeman. E non sono così bravo con i nomi e i cognomi del calcio come Marco Galeotti, però così a pelle, allenatori dall'A e la Z, e poi la trilogia si concluderà con ancora più difficile, da Anconetani, dicevamo, a Zamparini, forse, quindi i vecchi presidenti del calcio. Perché quelli di adesso, quelli di adesso è meglio lasciarli perdere. Mi sa di sì, forse meglio non raccontarli, sono tutti fondi, non si capisce bene la provenienza, c'è molta meno passione di quanto non ci fosse un tempo. Adesso mi viene in mente, giusto perché stiamo parlando di questo, c'è un Berlusconi con la B, un Bernard Tapie del Marsiglia con la T, insomma ci sono personaggi indimenticabili. Quindi sono molto contento di quello che abbiamo fatto e spero che molti possano venire venerdì 13 alle 17 alle Nuvole, comunque sfogliare, comprare, leggere questo libro, alle 19, il venerdì 13 alle 19, hai ragione, perché si presta, è divertente, è stato già letto da chi non è un grande appassionato di calcio e diventa, come dire, leggibile, fumabile in spagnolo. Sì, e molto. Quindi invitiamo tutti a darci un'occhiata, insomma. Volevo dire anche, scusate, perché ho una certa età, per quello non gioco più, sono diventato allenatore, uno perde i pezzi, che la storia di Baggio è raccontata a pillole sulla pagina di Instagram di Collettivo Atletichillo da Galeotti in una maniera fantastica. Quella potrebbe essere il lancio per la lettura del libro in versione cartacea, insomma. Ecco, allora, Collettivo Atletichillo lo trovate anche su Instagram, Abbecedario Pallonaro d'Altone Nazzu Bizzarrete, questo libro uscito pochi mesi fa per Garrincia Edizioni, che si presenterà, come avete sentito, la prossima settimana alle Nuvole. Noi aspettiamo anche le prossime uscite e ringrazio di cuore Marco Galeotti e Marco Valesi di averci accompagnato quest'oggi qui a Zibaldone. Ci vediamo la prossima settimana alle Nuvole e ovviamente giocheremo al gioco inventato da Galeotti. Banzo, tu insomma cerca di rispondere sempre correttamente, perché se no ti dobbiamo portare in ospedale. Comunque, un presidente possibile con la Z, so che è meno romantico di Zamparini, ma da interista devo dire Steven Zang. Ho cambiato discorso, Steven, scusami. Hai fatto bene. Ma Marco Galeotti, Marco Valesi, grazie di essere stati con noi, a presto. Grazie a te, Steven. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Cristina Argentina 0, Colombia 0. Valderrama. Posición adelantada en tres paredes. Self-confidence is not a trait to boast about, like Andrew Tate. Wine, gums and Jesus come to please us. But if that don't work, call Captain Kirk. Well, let's not scream and make a drama. Viva Carlos Valderrama. Well, let's not scream and make a drama. Viva Carlos Valderrama. Let's not scream and make a drama. Viva Carlos Valderrama. Let's not scream and make a drama. Viva Carlos Valderrama. Rabbia e indignazione per la presenza nell'Adriatico di un'altra specie aliena, pericolosa per l'ecosistema, la noce di mare, antagonista. L'eterno Calenda, guerriero mai domo, lancia la proposta di un gruppo di volenterosi per difendere la biodiversità, fa discutere la presenza dell'ICE con bombardamenti mirati sulla laguna di Venezia. Non avranno funzione di ordine pubblico, ma di baluardo culturale ed espressione di personalità, spiega Piantedosi, felice come un bambino. Per alcuni ha la voce dei nonni dopo una caduta dalla bicicletta, è l'oligarca russo Roman Abramovich, cinico, implacabile campione del riciclaggio di denaro. Secondo l'Istat, avrebbe nascosto per scherzo 20.000 euro di una 67enne del posto sotto il ghiaccio del lago di Lavarone. Trump: speriamo di dover usare le nostre navi. Sul nuovo decreto sicurezza: agiremo velocemente con calci e pugni, promette la Premier. Si va verso l'estensione della zona rossa anche sul Triveneto e nel centro Italia, dalla Toscana al Lazio. Salvini: non si aiutano i siciliani togliendogli la repressione. Rabbia e indignazione per la partita Como-Atalanta 0-0. Nico Paz sbaglia un rigore in pieno recupero e colpisce la prostata di un poliziotto a Torino. E sono tornate anche le ultimissime di Fausto, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, in queste ultimissime, al di là di tante cose sul mondo, vabbè che glissiamo, però è comparso anche il calcio, che però si unisce a dei fatti insomma politici e sociali italiani che stanno facendo insomma molto discutere, per usare un eufemismo. Ma io non lo so, Nico Paz è uno dei migliori talenti in Serie A, non so come fa a sbagliare un rigore in questo modo, da Como arriva fino a Torino e colpisce un poliziotto in un punto così specifico, mi verrebbe da credere che lo abbia fatto apposta, perché secondo me ha una buona mira. Poi parliamo di una mira che dovrebbe essere a livello quasi della prima puntata di Holly e Benji, se ricordi la scena in cui il pallone arriva fino alla villa di Benji Price. Però ecco, diciamo che le ultimissime hanno sempre il potere di lasciarci più confusi di quello che eravamo prima di ascoltarle. Spiegano e spiegando causano sempre nuove domande. Comunque io preferisco la Pistoiese, l'Avellino degli anni 80 o il Pisa e l'Ascoli Piceno, che il Como in mano a, insomma, con tanti soldi americani che lo convertono in una realtà importante, come è stato anche il Girone recentemente. Non apriamo questo parentesi, lasciami fare, Banzo, questo commento, perché poi il tempo scorre, noi vogliamo farvi ascoltare anche un po' di cose io credo interessanti, come il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, uscito da pochissimo all'inizio di questo 2026, Viva Carlos Valderrama, The Pete Surgeon Experience, che è una band punk inglese. In realtà il progetto solista di Pete Cliskey, in arte appunto Pete Surgeon, che era già stato insomma leader, parliamo parecchi anni fa, di una storica punk rock band britannica nata nel 77 in Cornovaglia, The Surgeons, e qui insomma avete sentito che ci sono anche riferimenti anche ad altre figure sia del calcio che della politica che della letteratura, da Steinbeck a Orwell, da Elon Musk a Ruud Gullit, oltre ovviamente a Carlos Valderrama. E questo per il racconto che hai scritto tu, come dicevamo anche nell'intervista, ma è bene ricordarlo. Noi invece andiamo avanti, Banzo, proprio botta subito, e un altro personaggio che compare nel libro è quel portiere mitico degli anni della metà del Novecento, bisogna dirlo così, Lev Yashin. E noi andiamo a ascoltarci una canzone di La Lucia Libre. Vuoi commentarla prima o dopo? Ma la commento adesso, guarda, Leviashi non è un portiere, è il portiere, è anche l'unico che ha vinto il ragno pallone nero, d'oro. Il ragno nero. Esatto, è anche l'unico che ha vinto il pallone d'oro, non che sia stato l'unico a meritarlo, forse perché anche Buffon non l'avrebbe rubato, ma Buffon è una figura infinitamente meno affascinante. E è fascista. E non mi fa... Sì, non volevo dirlo, ma insomma, non è un personaggio non è all'altezza del giocatore, diciamo, personalmente. Ma parliamo di Leviashin, che invece con la sua vita, diciamo, il suo arco vitale è stato iscritto quasi nella storia dell'URSS e quindi è diventato un simbolo dell'URSS, nel quale, secondo molte fonti che ho letto, lui si riconosceva in pieno. E però questo brano gli è stato dedicato da un gruppo francese che ha un nome in spagnolo e che suona Britpop. Quindi abbiamo dalla Bretagna la Lucha Libre, perché questo è il nome del gruppo, suonano Britpop per loro stessa dichiarazione e cantano spesso in inglese. E in questa canzone, che è estratta da una seconda versione, era già stata pubblicata prima, appare in un mini intitolato Football Songs, chi vuol capire capisca, questa canzone vengono citati molti portieri, grandissimi nomi, Chilavert, Gordon Banks, Fabien Barthez, Oliver Kahn, quindi non gli ultimi della classe, ma diciamo che lo scopo è un po' ricordare che tutti devono stare al loro posto davanti al Ragno Nero, che è il più grande di tutti, ed è difficile discutere su questo, come abbiamo detto fino adesso. Mancava Cervone, ma Yashin è sicuramente meglio. Diciamo, andiamoci ad ascoltare questa canzone e poi torniamo a Banzo. Never. dopo questa canzone dedicata a Lev Yashin, il ragno nero, Banzo, noi facciamo un salto, beh, noi in realtà un po' avanti, ma non di molto, perché siamo tra gli anni 50 e 60, quello che è stato soprannominato a suo tempo il gigante buono della Juventus. Però in questo caso facciamo un salto indietro a livello musicale, perché non è una canzone dedicata, in questo caso parliamo dell'attaccante gallese John Charles, ma una canzone che proprio lui stesso, come Juari 20 anni dopo, interpretò, in questo caso nel 1960. Sì, come Juari, Steven, però con ben altri risultati. Sì, questo è vero. Perché il gigante buono della Juve, insieme a Boniperti e Sivori, il taglio leggendario, diciamo che aveva delle doti piuttosto inattese di cantante, un timbro basso e caldo irresistibile, e qui lo vediamo in una cover, ha inciso 2 45 giri in quel periodo, questo brano del 1960, diretti con l'orchestra, scusa, di William Galassini, e in questo caso interpreta una cover di un brano country, che è una cosa curiosa, 1947, quindi all'epoca relativamente recente, brano di Merle Travis, intitolato 16 Tons, e le 16 tonnellate sono tonnellate di carbone, perché nella tradizione del country sociale, più sociale, è un brano che parla della vita di un minatore di carbone, un brano ultra coverizzato. Diciamo che non ti aspetti John Charles interpretandolo, no. Però lo fa molto molto bene, come sentirete. Ce l'andiamo ad ascoltare, via. John Charles, sentitevelo qui. Some people say a man is made of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A man that's weak and a backer that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning and the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, and I'm an uncle, and the strong boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning in the drizzling rain. Fighting and trouble on my middle name. I was raising the king big by an old mama line. He don't white talking woman make me walk of the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I sold to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. I've got one fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ma cantava proprio bene John Charles, Banzo, bisogna dirlo. Comunque noi siamo alla fine di questa puntata di Zibaldone, e tra l'altro una cosa che è rimasta un po' lì nel cassetto era quella di, insomma, dire, beh, ma insomma ci sono 26 calciatori in questo abbecedario pallonaro, ma chi altro avremmo voluto mettere, no Banzo? Tu chi altro avresti voluto mettere, al di là di Juari o di quelli che insomma hanno scritto, i racconti che hanno scritto altri? Luciano Vassallo, la straordinaria figura di un italo etiope che però sarebbe stato difficile arricchire con voli pindarici, perché già la sua storia di per sé è incredibile ed è caratterizzata da un'integrità morale straordinaria. Vi invito ad andare ad approfondirla se non la conoscete. Magari, insomma, in futuro. Io invece, guarda, pensandoci, perché ne abbiamo parlato fuori onda con i nostri ospiti quest'oggi, io direi Tuta, il giocatore del Venezia, insomma, che è brasiliano, anche lui con una storia particolare, parliamo fine anni 90, primi 2000, quegli anni là. E poi, guarda, ne aggiungerei un altro, Banzo. Quando non doveva segnare, diciamo. Esattamente, fu pestato andando negli spogliatoi perché la partita era stata mezza venduta, eccetera. E l'altro sarebbe Renato Portaluppi, per rimanere sui brasiliani, come quello della Pistoiese, che sono arrivati come, insomma, in teoria erano dei geni e poi a metà stagione li hanno rimandati a casa. No, Renato però ebbe una carriera fuori dalla tragicissima parentesi romana. In Brasile è considerato un calciatore serio, principalmente perché lo fu, però in Italia si è una figura abbastanza grottesca. Sì. Invece Galeotti e Valesi ci hanno detto così a botta risposta, Pato Aguilera, Marco Valesi, e Gigi Marulla, Marco Galeotti. Però insomma, comunque dai, ci ritorneremo su queste cose in futuro e come minimo la prossima settimana alle Nuvole. C'è poco tempo e noi abbiamo un ultimo trago del tutto particolare, perché è una nuova uscita, tra l'altro, di un artista catalano che è anche stato spesso nostro ospite, un grande amico. Parliamo di Jordi Pelach. Cedo a te la parola, un paio di minuti, perché poi il tempo è tiranno in radio. Sì, usciamo completamente dall'ambito calcistico, non c'è nessuna continuità, ma d'altronde l'ultimo trago è così, si può anche cambiare tema in modo completamente radicale. E quindi presentiamo questo brano del nuovo disco di Jordi Pelach, Labirini Visipla, che è uscito a fine novembre. Questo è stato il primo singolo che l'ha lanciato in compagnia di Sergi Esteia, una figura bizzarrissima di one man band, bluesman catalano del delta, ma catalano non lo so, bizzarrissima intesa in un senso completamente positivo, non pensate a niente di ironico, divertente, perché è bravissimo, ma lo sentirete. E questo è stato il brano che ha lanciato un disco che continua il discorso di Ningú Estima el Carté, che era un album molto sul versante dell'americana, di Jordi Pelach. Qui c'è dell'americana, però lo spettro sonoro, a mio modo di vedere, è più ampio, c'è anche molto indie, c'è dell'altro, vi invito a scoprirlo, è un disco molto lungo, sono 18 brani, e questa diversità di stili vuole riflettere anche un po' il concept non concept dell'album, perché indaga i limiti sfumati fra realtà e finzione, ci sono dei personaggi, c'è una stazione radio, succedono molte cose, c'è un personaggio realmente esistente. Se avete una dimestichezza, che mi appare spesso nella nostra quotidianità, se avete dimestichezza con la lingua catalana, vi invito a approfondire i testi, che sono molto interessanti. Mm-hmm. E comunque è un album che funziona perfettamente anche sotto il profilo musicale. Se non capite la lingua, sarete comunque in grado di apprezzare questo lavoro di Jordi, che io considero veramente ambizioso e che ho potuto, certo, seguire anche un po' nelle sue fasi di sviluppo, e che mi ha sorpreso per la sua vastità, Steven. Eh sì, no, ma anche a me è piaciuto moltissimo. Jordi Pelach, Vull Matar, questo è il titolo, Voglio uccidere, questo è il titolo della canzone che vi proponiamo per la chiusura dello Zibaldone di quest'oggi, produzione tra l'altro anche di Flavio Ferri. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tornau Galván, alle 17:56. Dice a tutti venerdì: comando, occhio alle pallonate, occhio alla prostata. Eh sì, Vull Matar, Jordi Pelach, bye bye, buon venerdì sera, ciao Banzo. Vull matar, una experiència humana. Vull matar i traurem aquesta gana. És un dret fonamental, inalienable, primordial, un greuge històric. Vull matar i tornar-te ombres. Vull matar i ser per fi un home. Ells ens maten a milers. Jo el que pugui amb les mans, tinc més modèstia. We'll be right back. experiència humana. Vull matar i treure'm aquesta gana. És un dret fonamental, inalienable, primordial, un greuge històric. Un temps passat.